1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, le 7 e 18 minuti in punto qui a Radio 24, cari ascoltatori. Questa è 24 mattino in diretta fino al 29 luglio, dunque mancano mercoledì, giovedì, venerdì. 8 giorni fissi. Il sabato e la domenica non andiamo in onda, 8 sveglie all'alba. E poi saranno vacanze per tutto il mese di agosto. Va bene, dai, siamo pronti a leggere i giornali? Sì! Oh, non sanno di che parlare i giornali, È martedì, è il 19 di luglio. Le aperture, il Sole 24 Ore, borse, dollaro in rialzo, scende il rischio Turchia. Quindi come la vicenda turca influisca le borse e i cambi. Anche per il Corriere della Sera, come per molti giornali, la Turchia è in primo piano. La grande epurazione di Erdogan. Ci sono ovviamente le foto che hanno fatto il giro del mondo dei militari nudi, tenuti prigionieri. Quello che fa titolare con quella foto il manifesto con una parola, Lager. E anche per Repubblica, pena di morte possibile, il mondo a Erdogan, fermati. Mentre per l'Unità, metodo Erdogan, c'è la foto sempre dei militari nudi. Per il Messaggero invece, strage di Nizza, la rete in Italia è il titolo di prima pagina. Anche per il Secolo XIX, Nizza ora spunta una pista italiana. Il Fatto Quotidiano, Erdogan sevizia gli oppositori, Alfano blocca il reato di tortura. Mentre c'è un'apertura del giornale che è questa, l'isola d'Elba espelle i Rom, la rivolta dei sindaci e la rivolta, secondo il giornale, contro anche il piano migranti, che è una questione diversa ma di cui parleremo più tardi, alle 8.40. La Stampa invece ha le grandi purghe di Erdogan, ma insieme a un'apertura dedicata al Movimento 5 Stelle, l'Italia dei grillini, sussidi, welfare, rischio complotti, è l'esame delle 514 proposte di legge fatta dalla Stampa, che cosa è contenuto. Mentre Libero apre con la foto di Carlo De Benedetti, il titolo è condannato per scherzo, e da qui voglio partire perché la vicenda è quella che ha portato alla condanna a 5 anni a Carlo e Franco De Benedetti come titolare della Olivetti di Ivrea, ex titolari. Condannato è stato anche Corrado Passera, allora amministratore delegato della società. Perché le accuse sono molto molto forti. I vertici dell'Olivetti, come racconta Paolo Griseri su Repubblica a pagina 12, condannati per omicidio colposo, lesioni colpose. Il giudice di Ivrea, Elena Stoppini, ha inflitto pesanti pene agli ex manager che hanno guidato l'azienda quando le lavorazioni prevedevano l'utilizzo di talco all'amianto. Il talco avrebbe causato il mesotelioma in 14 dipendenti, 8 dei quali poi morti. E dunque Carlo De Benedetti e Franco De Benedetti condannati a 5 anni e 2 mesi di reclusione, l'ex ministro Corrado Passera alla pena di 1 anno e 11 mesi. Insieme a loro altri 10 manager hanno subito condanne che variano da 4 anni a 1 anno di carcere. Sono condanne in primo grado. Il commento di Carlo De Benedetti è: sono stupito e molto amareggiato. Infatti c'è un articolo di Repubblica, l'amarezza dell'ingegnere. Carlo De Benedetti si dichiara stupito, molto amareggiato per la decisione del Tribunale di Ivrea di accogliere le tesi manifestamente infondate dell'accusa. Sono stato condannato per reati che non ho commesso, dice Carlo De Benedetti in questa nota, mentre intervistato dal Corriere della Sera parla il fratello Franco De Benedetti, 83 anni, che con ironia amarissima esordisce così: eccomi qui, non scappo, non fuggo, non sono ancora detenuto. Vi siete sentiti con suo fratello Carlo, l'ingegnere? Sì, ci siamo scambiati 2 parole, dice al Corriere intervistato da Fabrizio Caccia. Del resto, alla vigilia ero sicuro della condanna e lo era anche lui, sebbene gli avvocati si mostrassero fiduciosi. Come si dice in questi casi, ho fiducia nella magistratura. Ma lasciamo l'ambiguità della frase, d'accordo, si capisce benissimo cosa penso. Sono accuse ingiuste, dice Franco De Benedetti. Di sicuro ricorreremo in appello. Ho scritto che l'amianto ha provocato tragedie e l'accusa ha revocato casi, fatti e imprese dove sono avvenute, ma l'Olivetti era un'altra cosa e non solo perché abissalmente diversi erano i prodotti e le lavorazioni, ma perché diverso era il modo di essere dell'azienda. Vi faccio esempi, io stesso portavo i miei bambini a curarsi presso i servizi sanitari aziendali. Il nostro chief economist, Franco Momigliano, il grande Momigliano, si faceva visitare nelle stesse stanze degli operai. Da noi non c'era la catena di montaggio, ma le isole di montaggio contro l'alienazione e il capo del personale era un certo Paolo Volponi. Insomma, le condizioni di lavoro, gli aspetti psicologici, le relazioni interne, i rapporti col territorio venivano al primo posto. Perciò trovo ingiusto ora sentirmi accusato di essere stato incurante. Beh, ma ci sono stati dei morti, chiede il Corriere. Ma certo, non sono mica un medico legale, non contesto che ci siano stati morti per amianto. Anche se noi fabbricavamo macchine da scrivere, non eravamo un cantiere navale. Dicono che l'amianto fosse presente nel talco per asciugare i rulli. Io non lo so. Magari qualcosa davvero non avrà funzionato, malgrado tutta l'attenzione e i controlli. Comunque, ci sarà l'appello, ma ovviamente la notizia è una notizia di cronaca giudiziaria che coinvolge però Carlo Franco De Benedetti, soprattutto Carlo De Benedetti, editore appunto di Repubblica, L'Espresso, e che si difende però in una nota, mentre Franco De Benedetti, il fratello, nell'intervista al Corriere che vi ho appena letto. Dicevo, noi parleremo del piano migranti, la redistribuzione dei migranti, questa idea di metterli uno ogni 3.000 abitanti, di pagare 50 centesimi i comuni che sono soprattutto i piccoli comuni, in rivolta contro questo piano. Per la verità la stampa fa sapere che su questo piano migranti, soprattutto anche Lega, Forza Italia, sono contrari al piano del governo. Però sulla vicenda dei migranti c'è una notizia che dà al giornale il titolo di apertura, ed è questo appunto. L'Elba caccia i Rom. L'isola d'Elba espelle i Rom. I sindaci dell'Elba, racconta Marco Gemelli, esiliano i Rom con un'ordinanza. Sono stati allontanati, cioè accompagnati proprio sul primo traghetto e portati sulla terraferma i nomadi che chiedevano l'elemosina in spiaggia. Perfino il traghetto gratis, racconta il giornale, pur di farli andare via dall'isola. Così nel cuore della stagione turistica i sindaci dei comuni dell'isola d'Elba hanno sventolato il cartellino rosso ad oltre 30 Rom. E Alessandro Sallusti, direttore del giornale, commenta in prima pagina questa notizia. I sindaci dell'isola d'Elba hanno espulso la comunità Rom accampata sulle coste. Non importa che si stia parlando di piccoli numeri, piccoli di amministrazioni, è il fatto in sé che merita attenzione. Gli accampamenti disperati nei pressi delle stazioni ferroviarie, nei giardini, nei parchi pubblici, a volte nei centri storici, è indegno sia per loro che per noi, costretti a convivere con un degrado sociale che non meritiamo. E allora, dice, qualche decina di zingari che molestavano turisti e residenti sono stati imbarcati e riportati sulla terraferma. Non abbiamo memoria di provvedimenti simili, quantomeno decisioni così drastiche. Non sappiamo neppure quale sia il colore politico di questi primi cittadini, né ci importa conoscerlo, ma il fatto in sé merita attenzione, così scrive Sallusti. Insomma, l'espulsione dei Rom certamente è una, sarà una notizia magari minore, ma che si presta a commenti. Invece, che cosa hanno trovato a casa di un funzionario del ministero, non del ministero, di Palazzo Chigi e quindi del governo? Un funzionario che lavora a Palazzo Chigi, lo racconta il Messaggero, lo racconta il Corriere della Sera. Ecco qui Fiorenza Sarzanini a casa di Renato Mazzocchi, funzionario della Presidenza del Consiglio. Hanno trovato buste con 230.000 euro. Funzionario indagato per riciclaggio. Hanno trovato anche un elenco, secondo l'accusa, di processi da aggiustare. Immediata è scattata l'accusa di riciclaggio nell'inchiesta della Procura di Roma sugli affari gestiti dai politici e imprenditori guidati da Raffaele Pizza, quella vicenda lì. Ricordate Raffaele Pizza, qualche giorno fa il faccendiere finito in carcere perché accusato di aver pilotato appalti pubblici. Il sospetto è inquietante, denaro che serviva a aggiustare processi, come del resto viene più volte detto nelle intercettazioni ambientali negli ultimi 2 anni. Staremo ovviamente a vedere. Mentre l'articolo che mi fa pinzare della giornata è un'intervista, lo hanno pure intervistato, o meglio, hanno fatto bene a intervistarlo, Nicola Pinna ha fatto bene assolutamente a intervistarlo, bisogna sempre guardare negli occhi chi sbaglia, hanno intervistato colui che ha picchiato il disabile di Olbia, quelle immagini le avete viste, ginocchiate, pugni, ginocchiate in faccia, sberloni. L'uomo delle botte, così viene definito Bachisio Angius, 27 anni di Sassari, ora si difende. Non sono una bestia, intervistato dalla Stampa, pagina 21. Come mi sento? Come un ragazzo che ha litigato con un amico. D'altronde è successo a tutti di fare a cazzotti. Ecco, già qui nella prima frase mi fa stare di bestia. A me non è mai successo di fare a cazzotti, non lo so. A me non è mai successo di fare a cazzotti, sarò strano, sarò fatto in modo diverso. Comunque Bachisio Angius dice di avere paura, lui, di essere preoccupato per sé e per la sua famiglia, lui. Non sono una bestia, come tutti mi definiscono. Sì, ho esagerato con le mani, ma mi sono amaramente pentito. Ripeto, pentito. Io non sapevo che Luca fosse un disabile, giuro, non lo sapevo. Era la terza volta che ci vedevamo. Si comportava come una persona normale. Non me l'aveva detto di certo, non poteva capirlo dai suoi comportamenti, dal suo carattere. Era sempre tranquillo. Beh, ma giustifica le botte tutto questo? Ma no, certamente no, mi rendo conto di aver esagerato, ma in discoteca durante una serata succedono episodi strani. E poi aggiunge, e poi ribadisco quello che ho scritto già su Facebook. Se ho reagito così, un motivo c'è. E qual è? Luca era rimasto fuori dalla discoteca. Noi siamo entrati, lui no. I buttafuori non l'han fatto passare. Quando ero dentro lui mi chiamava di continuo. Mi ha perfino minacciato, mi ha detto avremmo fatto i conti fuori. Sì, ma il primo a alzare le mani è lei. Sì, ma lui aveva già litigato con altri ragazzi. Io gli ho dato solo schiaffi e pugni. Non posso di certo avergli fratturato le gambe. E insomma, racconta così. Ma vabbè, sono uno che ha sbagliato. Non sono una bestia. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, il tribuno dell'informazione. Va bene, grazie per il complimentone, trimone. Allora, cari ascoltatori, dobbiamo parlare della Turchia. Molti giornali ancora aprono sulla repressione di Erdogan, davvero incredibile. Io ho detto questa frase che sintetizza in maniera brutale, ma se questa Turchia chiede di entrare in Europa, quella che vuole il ripristino della pena di morte, la repressione, se questa Turchia dovesse entrare in Europa, dovremmo uscirne tutti dall'Europa, così la lasciamo da sola. È inammissibile quello che sta succedendo, sebbene ci sia stato un tentativo di golpe e ora Erdogan stia col pugno duro riprendendo in mano la situazione, ma è inammissibile gli arresti, più di 7.500 tra militari e magistrati, 13.000 licenziati tra i dipendenti pubblici e soprattutto quelle foto dei militari trattati, messi nudi, ammassati come in un lager. Questo è il titolo molto forte del manifesto. Allora, pagina 2 del Corriere della Sera: il fallito golpe militare venerdì è costato la vita ad almeno 308 persone, più di 500 gravemente ferite, ma la reazione del presidente Erdogan sta cambiando faccia al potere statale turco. Arresti, dimissioni forzate, sospensioni del servizio hanno già raggiunto quota 20.000. Per colmare i vuoti di organico lo Stato ha cancellato le ferie degli altri. Ci sarà traffico oggi sulle strade che dal mare riportano alle città. 3 milioni di dipendenti pubblici richiamati al lavoro a tempo indeterminato. Uno stato di emergenza più nervoso che legale, perché il presidente appare determinato a cambiare la Turchia molto velocemente. Questo scrive Andrea Nicastro a pagina 2 del Corriere della Sera e aggiunge questa frase che fa capire molto. A un certo punto Erdogan ha definito il golpe un dono di Allah per costruire una nuova Turchia. Ecco, qual è la nuova Turchia? Quella delle repressioni, delle foto brutali, quella in cui si chiede il ripristino della pena di morte, ma lontani da questa Turchia, verrebbe da dire, cari europei, lontani da questa Turchia. Il ministro dell'interno, il ministro degli esteri Gentiloni viene intervistato a pagina 4 del Corriere della Sera da Paolo Valentino e dice: nervi saldi, bussola chiara. Primo, non dobbiamo rinunciare all'Europa. Secondo, lavorare con gli Stati Uniti per coinvolgere la Russia. Terzo, sconfiggere il terrorismo senza crociate e illusioni militari. Questa è la sfida. Chi cavalca la paura vorrebbe farci dimenticare la tragedia del Novecento europeo, farci credere che si possa fermare la globalizzazione o illudere i cittadini che si possano bloccare in mare i migranti. Sulla Turchia, dice Gentiloni, siamo stati chiari nel condannare l'avventura militare, ma oggi lo siamo altrettanto nel dire che vendette, epurazioni, violazioni dello Stato di diritto sono inaccettabili. La porta dell'Europa rimane aperta per una Turchia democratica, ma le scelte delle autorità turche saranno decisive perché non si chiuda. Ecco, questo Gentiloni parla a proposito di Europa. A proposito invece di Nizza, saremmo vittime di una gigantesca illusione se pensassimo che gli attacchi terroristici dipendano dalle sconfitte di Daesh e che lasciarlo un po' più tranquillo ci terrebbe al riparo da rischi. A muovere i lupi solitari è il richiamo di Daesh, la sua presunta forza vincente. Dobbiamo sconfiggerli. Possiamo ottenere risultati importanti a Mosul, a Raqqa, a Sirte, ma non sarà breve. E richiede tutto ciò un coinvolgimento delle comunità islamiche, dei paesi islamici, un impegno sul piano sociale e culturale. Questo e altro dice Paolo Gentiloni, ministro degli esteri, intervistato dal Corriere della Sera. Certo, queste immagini della repressione che sono ovunque sono immagini brutali, eh? Ecco le purghe del sultano, questo è il titolo di pagina 4 del Fatto Quotidiano. Tra retate, botte, omicidi, è stato ucciso anche il vice sindaco di Istanbul. In tutto questo, ieri è successo un altro episodio inquietante in Germania. Come raccontano i giornali, leggo da Tonia Mastrobuoni, pagina 7 di Repubblica. Afgano armato di ascia assalta un treno tedesco e le autorità dicono è un atto di terrorismo. Mentre si contano ancora i morti del folle attentato a Nizza, l'ombra dell'odio si sposta nella bassa Franconia, a Würzburg, dove un ragazzo afgano di 17 anni ha aggredito attorno alle 9 di ieri improvvisamente un gruppo di persone in un treno regionale con un'ascia e un coltello. Secondo un portavoce del Ministero dell'Interno bavarese, avrebbe gridato all'Akbar prima di sferrare l'attacco ai passeggeri. Per questo è accreditata la pista islamista. Tale ormai l'impossibilità di respirare tra un attacco e un altro, che la stessa polizia ha fatto confusione, ha fornito versioni contrastanti sui feriti. Primo momento avevano detto 21, poi è stato corretto il tiro. Verso mezzanotte il ministro dell'Interno ha fornito qualche dettaglio in più sulla dinamica dell'attacco. Germania colpisce con l'ascia su un treno. Ragazzi, io non lo so, su queste cose tutto si può fare tranne che sorridere, tranne che prendere sotto gamba, tranne che... Però io quando ho letto l'articolo del Fatto Quotidiano di pagina 11, un piccolo sorriso mi è venuto, cioè mi è venuto anche da dire: tranquilli cari italiani, perfino i terroristi o presunti tali, tra virgolette, in Italia sono da operetta. Ma leggete qua il Fatto Quotidiano. Urla, Allah è grande, poi si spoglia e corre nudo per Padova. Pare che a Padova ci sia questa persona, tunisina, 22 anni, senza fissa dimora e con problemi psichiatrici peraltro, già noto alle forze dell'ordine, come si suol dire. E non è la prima volta che si spoglia di colpo e corre nudo per le vie più importanti di Padova urlando Allahakbar. Vabbè, insomma, con la questura che cerca di individuarlo, a volte viene preso, lui si libera, una volta si è liberato a schiaffi e morsi a un agente e poi Ale, urla Allah è grande, si spoglia e corre nudo per Padova. Come gli streaker inglesi, no? Sapete, quelli che intervengono in manifestazioni sportive irrompendo nudi, non so, su un campo da calcio. A pagina 11 del Fatto Quotidiano. In realtà c'è veramente poco da ridere, per nulla da ridere. Tra l'altro, venendo all'altro grande attentato di questi giorni, Nizza, è stato trovato il corpo del primo italiano, Mario Casati, 90 anni, era scomparso, è stato identificato fra i cadaveri. C'è anche quello di un italo-americano di 20 anni. Ieri c'è stata la contestazione al premier francese Valls e a Nizza si è aperto un fronte che riguarda anche l'Italia, perché si è parlato di un presunto complice pugliese, o meglio pugliese, che stava in Puglia, di questo attentatore, di questo Mohamed Boulel. Tra l'altro, questo presunto complice, che aveva un appartamento a Gravina di Puglia, ha creato anche un po' di scompiglio tra il ministro dell'Interno Alfano e il capo della Super Procura Antiterrorismo, Franco Roberti. Racconta tutto bene Giovanni Bianconi a pagina 12 del Corriere della Sera. Beh, intanto c'è questo contatto sospetto, un indirizzo, una verifica della polizia, una comunicazione del ministro dell'Interno che svelano un pezzo di indagine italiana sulla strage di Nizza. Solo che cosa è successo? È successo che Alfano, in maniera trionfale, ha detto e ha comunicato a tutti che la polizia italiana stava svolgendo verifiche su un tunisino presunto complice dell'attentatore di Nizza. Il problema è che Alfano lo ha detto mentre gli investigatori stavano ancora perquisendo l'appartamento di Gravina di Puglia nel quale questo tunisino sarebbe stato ospite. La verifica dunque era ancora in corso e forse bisognava aspettare un attimo. Soprattutto gli investigatori italiani non sapevano nulla della vicenda, al che il procuratore Roberti dice non siano stati informati, il che sarebbe grave perché sarebbe opportuno che certe notizie, prima di essere divulgate, venissero fatte circolare nel circuito istituzionale. Diciamo che una frecciatina o una frecciatona, come dire, prima di comunicarla all'opinione pubblica, è bene che si sappia, almeno per noi. Comunque, c'è la notizia più importante, c'è un complice tunisino che era in Italia di questo attentatore di Nizza. Questa è la pagina più interessante e da approfondire. Ma sa tutto come al solito, grande esperto di terrorismo internazionale, il nostro Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno, purtroppo no. Non devo negare questa mia competenza. Ah, me ne attribuisco molte altre, ma questa proprio non me la sento. Ti manca. No. Caro Alessandro, volevo segnalarti qualche cosa sul Sole 24 Ore, tra le molte che trovi. Tra l'altro, se puoi intanto mostrare la vignetta di Rosa agli ascoltatori, di Domenico Rosa, ecco. Ottima, oggi che come ottima. Tutti possono vedere, infatti, come tutti possono vedere, è dedicata alla vicenda RCS, di cui riferiamo nelle pagine di finanza che tu leggerai avidamente, come si conviene, avidamente. Bravo, ti vedo attento questa mattina. Allora, poiché sei attento, possiamo anche ritornare sulle primissime pagine, perché ti consiglierei di leggere il resoconto di Gianni Trovati sulla vicenda delle banche e di questo ben via libera dell'Unione Europea. Ieri ci sono state le uscite da parte della direttore FMI, Christine Lagarde. Ma insomma, riassumiamo anche con una serie di schede tutte le misure in gioco. Questo nelle primissime pagine sulle 24 ore. Oh, e poi hai già chiesto l'amicizia all'Agenzia delle Entrate su Facebook? Lo farò subito, guarda. Perché vedo che hai già letto religiosamente Norme e Tributi, e quindi già sai che l'Agenzia delle Entrate ha inaugurato una pagina su Facebook. Oh, io pensa che bei commenti, pensa ai moderatori di quel sito che lavorano. Poveretti, non li invidio, credo che debbano fare degli orari abbastanza continui. A loro va tutta la nostra solidarietà, peraltro una cosa seria. Sulla pagina Facebook ci sono delle indicazioni proprio per il canone Rai, già ne parlavamo ieri, e ci sono delle indicazioni fatte appunto preparate dall'agenzia con domande più frequenti e anche dei tutorial, dei video come canone, si conviene. Sul canone. Sul canone, come ha detto il poeta ieri, il poeta del lunedì. Oh, ti voglio segnalare ancora su norme e tributi, naturalmente, i contributi che i professionisti devono versare per le loro casse, c'è tutto lo specchietto riassuntivo, quindi cari professionisti, preparate il versamento. E poi naturalmente oggi, essendo martedì, c'è il condominio. Naturalmente c'è il condominio. Il titolo più importante oggi sui contabilizzatori di calore, che tu dirai, invece è una cosa che bisogna risolvere entro l'anno per i condomini, è molto importante. Mm-hmm. Oh, e poi c'è una notizia invece di imprese e territori, con molte altre naturalmente, c'è stata una multa di 13.000 euro alle ferrovie perché non indennizzano i pendolari. Ah. È poca cosa, poca cosa 13.000 euro, ma potrebbe essere un segnale per i pendolari che, come sappiamo, spesso lamentano i disservizi, i ritardi appunto delle linee, diciamo, più periferiche. Mm. Ecco, leggi scrupolosamente questa volta sulle pagine di Impresa e Territorio. Va bene. E tutto ciò premesso, visto che abbiamo parlato di questioni di movimento appunto con i pendolari, non mi resta che salutarti con l'abituale augurio. Traffico! Mola mia Alessandro, mola mia che t'as il numero o il numero. Grazie caro ascoltatore, un abbraccio, ogni tanto serve così essere caricati anche con queste bugie a fin di bene, evviva! Allora, torniamo invece su un altro incidente, quello dei treni, lo scontro tra treni con 23 morti e 50 feriti tra Andria e Corato, perché nella inchiesta emergono alcuni dettagli come quelli della posizione del capo stazione di Andria, Vito Piccarreta. Racconta Repubblica, la verità del capo stazione, ho sbagliato per stress, ma non ho alterato gli orari. Avrebbe detto, io da solo martedì avevo la responsabilità di tutto lo scalo ferroviario di Andria, dal traffico dei treni, dei passeggeri, la gestione dei semafori, i passaggi a livelli, ha spiegato in sintesi nel suo interrogatorio di 6 ore. Un interrogatorio secretato, ma evidentemente alcuni particolari, se sono questi, emergono su Repubblica. E non è un caso che ieri la procura abbia ordinato perquisizioni lungo gli 11 chilometri della tratta dell'incidente. Insomma, dice il capo stazione, sì, ho fatto partire il treno dalla mia stazione perché non immaginavo che da Corato stesse arrivando un altro treno. Insomma, è quello che avevamo detto fin dall'inizio, cioè ha un sistema che evidentemente dà troppa responsabilità in capo a una persona, al singolo essere umano che può sbagliare magari anche per stress. E poi probabilmente l'errore, cioè l'avere confuso l'arrivo di un treno ad Andria, che era un treno in ritardo, con il treno che si aspettava arrivasse da Corato alla solita ora. E quindi pensando e scambiando i due treni, evidentemente dovrebbe essere partito questo via libera. E poi la tragedia. Anche il giornale dedica una pagina 16, l'abbaglio del capo stazione, ho sbagliato a farlo partire. Ma qui ci sarà un'inchiesta. Come detto, invece, noi parleremo anche di migranti, non solo quello che è successo a Elba secondo il giornale, ma il piano migranti, Lega e Forza Italia che bocciano il piano anticipato ieri dalla Stampa, e cioè quello di redistribuire i migranti nei vari comuni. Principi che, secondo Zaia, governatore del Veneto, gli fanno dire a un film comico la redistribuzione pensata dal Viminale. Così anche Toti, che dice, dalla regione Liguria, gli incentivi sono un atto dovuto. Sono invece favorevoli gli amministratori di centrosinistra. Anche qui non si capisce, cioè come se ci fosse una divisione politica. Per forza, siccome il governo è di centrosinistra, allora le amministrazioni di centrosinistra sono favorevoli al piano, le amministrazioni di centrodestra no. In una cosa che dovrebbe invece coinvolgere tutti, perché riguarda tutti, soprattutto tutti i cittadini e tutti i migranti, nel rispetto dei diritti di entrambi, sia i cittadini italiani e sia i migranti che arrivano. E invece così non è. Oh, come vedete, io vi tengo un po' fuori, ho deciso di proteggervi, vi tengo un po' fuori da tutti i discorsi della politica, il PD che litiga con la minoranza del PD, queste cose, che bello, sono scomparse dai giornali. Vedete che non erano poi così importanti. Quando ci sono fatti drammaticamente più importanti e i giornalisti sono impegnati a scrivere di cose drammaticamente più importanti, più serie, più vicine a noi, vedete che di colpo il chiacchiericcio della politica scompare. Allora vedete che non ho tutti i torti quando dico che forse il chiacchiericcio della politica sui giornali è carta da stracciare, carta inutile, no? Non sto dicendo la politica, ma il chiacchiericcio da politica. Chissà se arriverà il messaggio, e invece no. Comunque, ci sono ancora tante notizie anche di politica. Il Movimento 5 Stelle, tornano le espulsioni secondo il Messaggero, ma è tregua tra Raggi e il direttorio. Secondo Repubblica, il sindaco di Parma Pizzarotti è pronto a scrivere a Grillo una lettera per scrivere «decidete se cacciarmi o no». Mentre La Stampa, questo sì, fa una cosa molto interessante, in prima pagina Alberto Mingardi analizza le 514 proposte di legge dei grillini, anche se non amano essere chiamati così, commissione d'inchiesta su Montepaschi, sulla TAV, scuole per scoprire eventuali complotti. Cioè c'è di tutto, regolamentazione del gioco d'azzardo, aiuti e iniziative ritenute incommiabili e sostegno per la ripresa demografica dei piccoli comuni. Ci sono interventi anche di stampo giustizialista, secondo Alberto Mingardi, meno quelli in tema di diritti. Insomma, la radiografia che abbiamo fatto analizzando 514 proposte di legge presentate in questa legislatura dal Movimento 5 Stelle, a pagina 2-3 della Stampa. Poi sapete che le proposte di legge, tanto il 90% rimangono lì. Oh, voglio far vedere anche in diretta su Facebook, sul mio canale, sulla mia pagina, siamo in diretta in questo momento, saluto tutti agitando la manina, una tipica scena che in radio viene molto bene, mi potete vedere anche tutti in macchina che sto salutando. Allora, la Russia finisce ancora nel mirino per il doping e ora rischiano davvero per le Olimpiadi. Alessandra Retico, pagina 46-47 di Repubblica, servizi segreti, provette manomesse, laboratori gestiti dallo Stato che dava ordini di cancellare prove del reato, il doping come metodo, anzi la sparizione della positività dei propri atleti come metodologia cardine di Mosca. Tutto ciò è scritto in un rapporto, accuse pesantissime da parte dell'avvocato McLaren, avvocato della WADA, l'agenzia antidoping mondiale, un rapporto che è una sberla a Mosca a 2 settimane dalle Olimpiadi di Rio, nel giorno della chiusura delle liste per i giochi. Insomma, il Comitato Olimpico oggi dovrà decidere se escludere tutta la Russia, tutti i suoi sport, non solo l'atletica, da Rio de Janeiro. E arriva questo rapporto alla vigilia proprio per questa decisione. Oggi ci sarà la decisione anche per La Stampa. Russia, Rio in bilico, doping di Stato, non vada ai giochi. Andremo a capire che cosa succederà. Va bene, dai, la carta costa, articolo più inutile sui giornali, non ne posso più. Lo dico, di questo Pokémon Go, non ne posso più! E l'ho detto, il Fatto Quotidiano dedica una pagina. Pokémon Go, l'isteria collettiva e la manna per i colossi digitali. Sì, bisogna capire tutti i fenomeni sociali, ma io non ne posso più. Io ti giuro che se incontro qualcuno che mi cerca un Pokémon sulla spalla, sulla testa, io... Ecco, non ho detto che non ho mai fatto a cazzotti in vita mia, quindi non ho mai fatto a cazzotti. Non farò a cazzotti, però due cose gliele devo dire. Pokémon Go! Ma chi se ne frega!